9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 3 novembre da Oscar Giannino. Il punto su cui oggi tenteremo di approfondire la riflessione con ospiti adeguati è relativo a come l'Italia, se l'Italia naturalmente, il dubbio è del tutto ipotetico, ma soprattutto come l'Italia potrà riagganciare la ripresa, riprendere a crescere, sapendo che oltre alle caratteristiche della ripresa che inizia a manifestarsi in questi mesi in maniera diversa, nelle diverse aree del mondo, e che dipende dalla natura stessa di questa crisi dell'economia reale scatenatasi dopo quella finanziaria, nella realtà il nostro paese ha un altro problema che è concomitante, ma in realtà quasi prevale su questo secondo, perché il vero problema è quello di tentare di sanare insieme i gap che ci trasciniamo dal passato, i problemi meglio che ci trasciniamo dal passato e che già ci avevano spinto negli anni precedenti alla crisi a crescere molto meno dei partner dell'Unione Europea, dei paesi che trainavano la crescita del mondo. E da questo punto di vista oggi parliamo con un osservatore che da molto tempo è in un'istituzione che è l'istituzione economica per eccellenza del nostro paese, la Banca d'Italia, e che approfondisce insieme a molti altri economisti i diversi temi dello sviluppo italiano, dell'interrelazione tra i diversi fattori che determinano da una parte i problemi e dall'altra le eccellenze del modello di sviluppo italiano, e Salvatore Rossi, che è il direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca d'Italia e che ha appena pubblicato per La Terza un libro il cui titolo è Controtempo, l'Italia nella crisi mondiale. Buongiorno Salvatore Rossi. Buongiorno a tutti. Ecco, e insieme a Salvatore Rossi dialogheremo con Luca Paolazzi, che è il direttore del Centro Studi di Confindustria. Buongiorno Paolazzi. Buongiorno a tutti. Allora, questo libro di Salvatore Rossi inizia con una pagina che davvero è fenomenale, perché chiunque ha letto il libro di Salvatore Rossi, leggendo questa frase, la cita agli amici, ed è così, perché sembra scritta praticamente l'altro ieri. Invece è una pagina che risale al 1946 ed è una pagina scritta da un grande italiano a un altro grande italiano, solo che la descrizione dell'Italia, dei suoi difetti, delle sue arretratezze di classe dirigente, pare praticamente essere eterna. Come mai questa citazione iniziale? Posso chiedere, dottor Rossi, da dove le è venuta? Naturalmente a sua volta lei l'ha letta e ha detto l'Italia è uguale. Guardi, mi sono imbattuto per caso in quella pagina durante un fine settimana della estate dell'anno scorso a Ventotene. Mi sono comprato nella libreria che c'è nella piazzetta di Ventotene un vecchio libro con l'epistolario fra Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini. Sfogliandolo mi sono imbattuto in quella pagina e ho veramente avuto uno shock, che è lo stesso tipo di shock che immagino provino coloro che la leggono oggi in questo mio libro, perché è una pagina che descrive un'Italia distrutta dalla guerra, stremata dalla fame, ma la descrive analiticamente, settore per settore, comportamento per comportamento, e come lei diceva, il senso di attualità che promana da quella pagina è straordinario, pur nella diversità enorme che c'è naturalmente. E naturalmente senza volerci condannare a un orizzonte di fatalismo e pessimismo, però intanto bisogna essere realisti, e questo mi piace sottolinearlo, dottor Rossi, e anche con Paolazzi, perché mentre il dibattito italiano sembra di solito prendere la piega tra chi è l'ottimista per partito preso e il pessimista per partito preso, di solito è una tendenza che ha a che vedere anche con la necessità di svolgere parti politiche nel dibattito pubblico. Qui invece si fa la scelta di essere realisti, cioè non si commette l'errore di attribuire chissà quale ruolo ai governi pro tempore, e magari invece, come è giusto, si richiamano le classi dirigenti, la politica, ma non solo la politica, a riflettere su ciò che l'analisi economica ci consente di individuare come i problemi di lungo periodo, di medio periodo. Iniziamo a vedere alcuni di questi insieme ai nostri due interlocutori. Io inizio dalle conclusioni adesso, poi torniamo a ritroso. Perché, lo chiedo a Rossi, lo chiedo a Paolazzi, ma innanzitutto a Rossi, perché lei si concentra nelle conclusioni individuando questi due grandi problemi: da una parte per il mercato del lavoro, insomma il sindacato, e dall'altra poi la cultura giuridica che permea il paese. Perché mi sono convinto in questi anni in cui insieme con gli amici e i colleghi della Banca d'Italia, economisti, analizziamo l'economia, la struttura produttiva, il funzionamento della società, mi sono convinto che quelli sono i due temi chiave. L'organizzazione del mercato del lavoro e in realtà poi dietro quella il ruolo storico del sindacato, dei grandi sindacati in Italia dalla fine della guerra a oggi, primo tema. Secondo tema, l'intero impianto del diritto, la cultura giuridica. Questa è una mia convinzione molto precisa. Vogliamo chiarire un secondo per chi ci ascolta: in questo momento noi non ci stiamo ovviamente riferendo alla parte invece del diritto che tanto occupa la politica da 15 anni, cioè le attribuzioni che l'ordinamento dà al pubblico ministero e al giudice in materia penale, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di tutto ciò che informa il diritto nella materia economica e soprattutto amministrativa della pubblica amministrazione. Stiamo parlando di qualcosa di molto più generale e di molto più profondo dei temi che sono l'oggetto del dibattito politico attuale. Stiamo parlando del fatto che il diritto in Italia, per una questione culturale antica, viene concepito come un valore assoluto che prescinde del tutto da ogni considerazione di efficienza e quindi è in qualche misura indifferente, se non ostile, e il più delle volte è ostile, al libero mercato e alla economia di mercato. Certo. Allora, invece, torniamo poi indietro, e adesso io mi faccio aiutare da Paolazzi in questo. Il libro comincia con un esame che riepiloga quello che noi sapevamo, in maniera sintetica ma sufficientemente chiara, quello che avevamo iniziato a capire di ciò che era avvenuto nell'impresa tra gli anni 2000 e la crisi. E Rossi ricorda al lettore i diversi filoni, i diversi avanzamenti che noi, che la ricerca economica italiana stava facendo per identificare che cosa avveniva poi nel cuore dell'impresa italiana, cioè quante imprese in percentuale, per tipologia di grandezza, di classe, di impresa, eccetera, stavano tentando di fare della rivoluzione tecnologica, del cambio di processo e di prodotto, una specie di strada per la propria salvezza, ma anche per recuperare quel valore medio unitario nel prodotto esportato che ci consentiva di indicare una strada positiva per il futuro. Eravamo reduci da anni in cui le nostre esportazioni, che sono dominanti nel modello di crescita italiana, si contraevano, ma insomma, da quello che si poteva capire, c'era una possibilità di speranza. Ecco, questo processo che riguarda quello che poi Mediobanca chiama il quarto capitalismo, qui ci sono suggestive descrizioni in imprese divise tra regine, torri e così via, quel processo è troppo presto per capire se la crisi l'ha interrotto e come, Paolazzi? Beh, certamente è troppo presto, nel senso che non abbiamo ancora degli elementi tali per fare questa valutazione. Teniamo presente che la crisi è tuttora in corso, è vero però che la crisi stessa in un certo qual modo ha creato una rottura in questo processo, perché questo processo comportava investimenti, comportava slanci in direzione di nuovi processi, nuovi prodotti, nuovi mercati, comportava una crescita delle imprese che si basava appunto su questi elementi, e la crisi è, come noto, nata soprattutto come crisi finanziaria, e una crisi finanziaria è diventata crisi di fiducia, per cui tutti questi processi di cambiamento sono stati lasciati in stand-by per capire che cosa sarebbe successo dopo. Qualche elemento aneddotico, qualitativo, c'è in un senso e nell'altro, cioè c'è sia nel senso di chi comunque, avendo i conti e i bilanci a posto, essendo patrimonializzato, non avendo bisogno particolarmente di credito, ha continuato a fare investimenti, ha continuato lungo le strategie intraprese, e ci sono invece segnali di altri che pur essendo nelle stesse condizioni sul lato finanziario, si sono trovati di fronte a dei mercati completamente cambiati dal punto di vista della domanda e hanno cercato o stanno cercando addirittura di riposizionarsi verso, diciamo, una produzione di minore qualità, perché questo è quello che il mercato in questo momento chiede, ma questo significa appunto poi abbandonare il paese, perché una minore qualità non remunera i redditi elevati dell'Italia. C'è un punto sul quale chiedo a Paolazzi e chiedo a Rossi, ed è un punto che all'osservatore non troppo versato di scienze economiche, per così dire, costituisce un grave punto interrogativo. Cioè, è quello della difficoltà a volte di condividere gli strumenti interpretativi dei fenomeni economici nel nostro paese. Non parlo solo della sufficiente affidabilità degli strumenti per interpretare quello che avviene all'interno delle imprese, perché per esempio nelle imprese italiane pochissime tra di loro, comunque una percentuale parecchio più bassa di quanto non capiti in altri paesi avanzati europei, ha degli indicatori di produttività tali per cui quando arriva il questionario della Banca d'Italia o dell'Istat l'impresa stessa possa fare ricorso a un'osservazione storica sufficientemente standard al proprio interno per dare risposta a quella domanda. Faccio questo esempio perché naturalmente più questo tipo di criteri mancano, più l'interpretazione dei fenomeni diventa poi un po' fumosa. Ma mi riferisco anche dati come i disoccupati, cioè ieri su tutti i giornali si notava inevitabilmente che c'è una stima dei disoccupati, quella dell'Istat riconosciuta dal ministro Sacconi, c'è una stima dei disoccupati fatta con un criterio leggermente diverso, ma che però è fatta dal governatore della Banca d'Italia, c'è una stima dei disoccupati totalmente diversa fatta dal segretario della CGIL, questo si può capire, insomma, però insomma che ci siano criteri di questa diversità non è un po' singolare, certo non aiuta. Lei che dice, Paolazzi? Non aiuta, no. D'altronde però le statistiche sono in un certo qual modo fatte in base a certi parametri e certi criteri. Nel nostro paese il tasso, diciamo, ufficiale di disoccupazione è calcolato anzitutto sulla popolazione residente e quindi non considera gli immigrati clandestini, in secondo luogo deve considerare come occupati le persone in cassa integrazione, perché noi abbiamo questo strano e anche straordinario ammortizzatore sociale che mantiene formalmente la gente nel posto di lavoro anche se è a casa a zero ore a fare nulla, e questo fa sì appunto che c'è una differenza forte fra la rilevazione ufficiale e lo stato di fatto dell'utilizzo del lavoro. Però se poi andiamo a vedere sempre dentro le statistiche dell'Istat scopriamo che ci sono altri dati che ti dicono che quei lavoratori non stanno lavorando e quindi fanno emergere un calo dell'occupazione molto più forte, e se tu aggreghi questi occupati che in realtà non sono occupati al tasso di disoccupazione, scopri che in realtà il tasso di disoccupazione italiano è molto più alto, in linea, diciamo, in termini di andamento con quello che è successo nel resto dell'Europa. Dire, diciamo, che ci vorrebbe una statistica diversa, francamente mi sembra difficile. Lasciamo perdere le valutazioni sindacali, ovviamente. Certo. E quelle, diciamo, sono fatte un po' spannometricamente e sicuramente con finalità di natura politica, mentre le statistiche Istat, per quanto, diciamo, discutibili, sono fatte con criteri scientifici e senza secondi fini. Però ecco, il libro di Rossi, a un certo punto, in un passaggio centrale, proprio a proposito dell'affidabilità dei criteri di rilevazione, ed è uno dei punti più importanti per analizzare gli andamenti italiani, cioè la produttività, a un certo punto si pone il problema, Rossi, se noi abbiamo indicatori capaci di farci apprezzare davvero in maniera significativamente vicina alla realtà la produttività italiana. Notoriamente noi abbiamo un problema di bassa produttività che si accumula da anni rispetto ai competitor, e a un certo punto Rossi dice ma siamo proprio così sicuri che sia così bassa? Perché forse bisognerebbe porsi un punto interrogativo. Lei, Paolazzi, che dice? Ma che dire, che comunque queste statistiche sono le migliori che abbiamo, che vanno migliorate, che vanno approfondite. Ma intanto bisogna alzarla, questo è il punto, mi pare. In che senso bisogna alzarla? No, ma ecco, intanto dice, sì, esatto, questo forse era la sintesi, era questa, sono quelle migliori che abbiamo, ma intanto resta bassa e bisogna alzarla, oppure no? Ma no, beh, quello sicuramente sì, che la produttività sia un problema di fondo del sistema è chiaro, ed è un problema che non riguarda soltanto le imprese o quello che succede dentro le imprese, è un problema che riguarda il paese nel suo insieme, come fanno vedere gli esempi del bel libro di Rossi, in termini sia, diciamo così, di funzionamento, malfunzionamento del mercato del lavoro, sia in termini di, poi dall'altra parte, un sistema giuridico che, come diceva Rossi poco prima, non è improntato ad alcun elemento di efficienza, ma semplicemente, come dire, autoreferenziale, per non parlare della numerosità delle norme, per non parlare della molteplicità di interpretazioni delle norme stesse, che rende difficile a un imprenditore imparare il proprio mestiere, perché si deve districare fra diverse norme, quindi una volta che ha imparato come farlo nel suo settore, difficilmente si imbarcherà nell'avventura di cambiare settore per imparare ulteriori norme. Quindi sicuramente questa produttività è elevata, e i modi per farlo ci sono, non sono modi, diciamo, che ottengono risultati schiacciando un bottone, perché significa, diciamo, in realtà anzitutto ripensare tutta la macchina dello Stato, perché anche questa è fatta, improntata sempre al formalismo e, diciamo, a un modo di lavorare non rispettoso delle finalità di utilità per i cittadini, ancor prima che per il sistema economico. Rossi, per alzare la produttività, quando una parte così rilevante delle attività economiche resta sottratta ancora a meccanismi, scusate, di concorrenza nel mercato domestico, quando una parte rilevante dei servizi, che sono il 70% del valore aggiunto, resta esercitata in ambiti in cui la concorrenza non è in grado di esercitare quindi tutte le sue funzioni, come si fa fondamentalmente? Cioè, è più qualche cosa che si fa dall'alto verso il basso, o è qualche cosa che può determinare i suoi effetti cambiando magari l'interazione tra finanza e impresa, ma dal basso verso l'alto, cioè dalle micro unità produttive del paese? Questa è la nostra grande questione, la produttività. Produttività vuol dire efficienza, vuol dire quanto di un bene o di un servizio io riesco a produrre a parità di sforzo, di impiego, di ore lavorate, di numero di lavoratori. Ora, quello che è successo negli ultimi 15 anni è che il mondo si è rivoluzionato, in particolare la tecnologia dominante è stata oggetto di una rivoluzione. Siamo passati dal paradigma elettrico nato alla fine dell'Ottocento al paradigma digitale, quindi dopo 100 anni è completamente cambiato il paradigma tecnologico. Di fronte a questa rivoluzione che è avvenuta in tutto il mondo, la nostra economia ha tardato ad adeguarsi, perché un sistema produttivo, quando cambia la tecnologia dominante, si deve adeguare. Il nostro ha tardato, altri sistemi produttivi, quello americano, ma anche quelli dei paesi nord europei, eccetera, si sono rapidamente adeguati e hanno fatto dei salti di produttività veri e propri, perché una tecnologia più moderna consente di aumentare enormemente l'efficienza nell'intero sistema produttivo. La produttività stagnante dell'economia italiana nei passati 15 anni è il problema dei problemi, è quello che ci ha fatto interrompere il processo di crescita. Questo ristagno della produttività è stato dovuto, secondo le nostre analisi, a un mancato adeguamento o ritardato adeguamento del sistema produttivo del nostro paese alla rivoluzione tecnologica che c'è stata in questi anni. Perché, questa è la grande domanda, perché noi tardiamo mentre altre economie e altri sistemi produttivi invece questa ondata tecnologica l'hanno cavalcata con grande tempestività? Per una serie di caratteri strutturali del sistema produttivo, della società, vorrei dire più in generale, che ci portiamo dietro come eredità storica dal passato. Uno di questi caratteri è la dimensione tendenzialmente piccola, più piccola che in altri paesi, delle nostre imprese, che fa da ostacolo a una adozione proficua di queste nuove tecnologie. Un'altra questione è quella che lei citava nella sua domanda, e cioè la resistenza in Italia di una vasta area che produce servizi che è sottratta al libero gioco concorrenziale. Paolazzi, vogliamo toccare un secondo un punto che è molto presente in un dibattito un po' ipersemplificato, cioè di coloro che dicono nella realtà il nostro paese subisce una concorrenza impropria, larga parte dei motivi della minor crescita e oggi della maggior perdita di prodotto nel nostro paese, che era tra le più rilevanti dopo quella della Germania, insomma, in Europa, in ragione della nostra vocazione di esportatori, dipende dal fatto che noi abbiamo troppo aperto alla cosiddetta globalizzazione, i cattivoni, come si fa a reggere a costi così bassi e così via. Nel libro di Rossi, secondo me, modestamente, mi metto ultimo in fila, con una certa fondatezza, si respinge questo punto di vista dicendo no, non è questo la cosa. Però siccome è un argomento che conta, possiamo spendere poche parole, Paolazzi, per dire che la risposta non è chiuderci a casa nostra e pensare di erigere dei muri? Questo è sicuramente verissimo. L'Italia, anzi, ha dimostrato nel corso della storia economica che è stata capace di dare il meglio di sé quando i mercati sono stati aperti, non quando i mercati sono stati chiusi, quando non c'era autarchia di qualunque tipo e forma, compresa quella di natura finanziaria e sui capitali degli anni 70 e 80. Penso che quello che è accaduto con l'ingresso di paesi enormi in termini demografici e quindi con masse sterminate di lavoratori, non solo diciamo determinati a conquistarsi un benessere più elevato, ma anche spesso e sempre più rapidamente capaci ad apprendere le tecnologie e quindi a produrre beni concorrenziali o altamente concorrenziali nostri per un tozzo di pane o una ciotola di riso, quello che è accaduto è che sicuramente ciò ha dato un'enorme pressione concorrenziale al nostro paese, che è arrivato in quel frangente impreparato perché le riforme strutturali di cui si parla ancora oggi sono in ritardo di 10, 20 anni, 30 anni, impreparato perché il risanamento dei costi pubblici, dei conti pubblici è avvenuto attraverso il sistematico taglio degli investimenti in infrastrutture e per un certo periodo in realtà gli investimenti in infrastrutture sono stati diciamo realizzati come dire secondo criteri politici di clientelismo politico se non peggio anziché guardando all'efficienza del paese. Siamo arrivati impreparati perché siamo stati drogati da una lunga fase di aumento di debito pubblico che metteva a tacere i contrasti sociali e quindi però non li accettava anche in un certo qual modo e quindi faceva in modo che la presa di realtà di fronte al cambiamento non avvenisse e siamo stati drogati da una svalutazione del cambio che ogni tanto ridava ossigeno competitivo, è un ossigeno competitivo basato più sul prezzo che non su altri fattori, anche se durante gli anni 80 la Banca d'Italia tentò di percorrere una strada di rivalutazione reale del cambio che facesse una gentile pressione concorrenziale sulle imprese e questo diede anche dei frutti a suo tempo, però poi ci fu la crisi finanziaria dello Stato, la mega svalutazione della lira, quindi all'inizio degli anni 2000 il grosso del lavoro da parte delle imprese doveva essere fatto. Le imprese si sono rimboccate le maniche, lo dicevo prima, lo testimoniano le ricerche della Banca d'Italia stessa. Il fatto è che il resto del paese non ha fatto molto da allora, siamo ancora qui a discutere come fare la riforma dell'università, come fare la riforma della pubblica amministrazione, come e in che modo fare investimenti in infrastrutture, come se, anzi di questo non si parla proprio, liberalizzare i mercati, come diceva prima Rossi, dei servizi che sono protetti e che sono posizioni di rendita alla fine, sono bellissime diciamo, le pagine che Rossi dedica al caso dei notai, io non ce l'ho assolutamente ovviamente con i notai in sé, ma è chiaro che le pratiche, molte delle pratiche che si fanno presso i notai in altri paesi non esistono, e giustamente non esistono, sono semplicemente delle pratiche che fanno perdere tempo, costi, e quindi creano un'inefficienza che poi pesa su tutto il paese. In effetti si paragona all'apertura di una fondazione negli Stati Uniti e in Italia, e si paragona al fatto che in quel caso l'impresa che decide di aprire questa fondazione, anche per così dire per motivi di bilancio sociale, perché vuole un po' tacitare quello che fa, ci mette un'ora, in parole povere, gli avvocati di questa impresa, mentre in Italia occorrono procedure discrezionali, pacchi di documenti, settimane che passano, il prefetto che può dire sì o no, può chiedere altri documenti e così via. C'è un punto che mi ha colpito nella descrizione di ciò che non è detto che possa aiutare le imprese italiane a crescere nella loro scala dimensionale, che è una delle condizioni attraverso le quali poi si può investire di più, fare più produttività, applicare più facilmente la rivoluzione dell'ITC e della tecnologia orizzontalmente e verticalmente nel proprio processo, nella propria organizzazione a qualunque livello. E questo riguarda il rapporto tra l'impresa e la finanza, per come funziona il sistema finanziario del nostro paese, bancocentrico. Le piccole imprese italiane hanno delle difficoltà proprie, e poi ci sono anche difficoltà di mercato a immaginare di avere un rapporto sistematico per aiutarle a crescere, per esempio con il private equity. Da questo punto di vista, Rossi, non è che le banche italiane, siccome siamo un paese in cui intermediari finanziari non bancari praticamente, non dico che non ce ne siano, ma hanno un ruolo di gran lunga inferiore a quello di qualunque altro paese, non è che le banche in questo hanno delle colpe un po' più pesanti di quello che siamo abituati a immaginare, rispetto alla colpa che noi diamo alle imprese di non voler crescere, all'imprenditore che è geloso, non vuol far entrare nessuno a casa sua, preferisce restare piccolo o piuttosto chiudere e andarsene da qualche altra parte piuttosto che non crescere? Non è che le banche hanno un po' più colpa di quanto immaginiamo? Guardi, intanto mi faccia dire che questo è un ulteriore esempio di controtempo. Controtempo è il titolo del libro, e il titolo l'ho scelto perché mosso dall'idea che l'economia italiana in questi 15 anni, ma forse 30 anni addirittura, va in controtempo su una serie di fronti rispetto a quello che fanno gli altri paesi avanzati. Il mondo va da una parte e noi andiamo da un'altra parte. Questo del rapporto fra sistema produttivo, sistema delle imprese e finanza è un altro esempio di controtempo, nel senso che in questi 10 anni, 15 anni nel mondo si è sviluppata l'industria del private equity. Lasciamo stare che adesso, come dire, c'è questa risacca. Sì, viene demonizzata, insomma. Esatto. Il private equity è meno demonizzato di altri intermediari della finanza innovativa, ma insomma anch'esso in questo momento sta subendo i colpi di questa risacca che è così un po' demagogica. Comunque, tornando al punto italiano, che cos'è il private equity in buona sostanza? Il private equity è un intermediario che nel mondo anglosassone fa un'operazione molto semplice. Il mondo anglosassone è un mondo in cui le imprese sono delle public company, cioè sono normalmente delle società quotate con un azionariato molto disperso, gestite da manager che godono di una larghissima autonomia proprio perché l'azionariato è frammentato. Quando un'impresa comincia a non andar tanto bene, il fatto che sia quotata e che abbia un grande flottante fa sì che essa sia contendibile, quindi può farsi avanti qualcuno a dire no, io posso scegliere dei manager migliori e far fare dei risultati migliori a questa impresa. Questo può succedere direttamente in borsa con una scalata da parte di qualcuno, oppure può questa operazione farla un fondo di private equity. Quando la fa un fondo di private equity, questo fondo cosa fa? Tipicamente privatizza un po' quella che è una società pubblica, pubblica nel senso anglosassone. Noi all'aggettivo pubblico diamo normalmente il significato di statale. La situazione tipica italiana invece qual è? La tipica impresa italiana non è quotata, è familiare, è di proprietà di una famiglia o di un gruppo di famiglie, quindi ha una proprietà concentrata, è piccola, è più piccola del suo concorrente tipico che sta da qualche altra parte nel mondo. Una impresa di questo tipo a un certo punto ha un problema di crescita, può cioè ritrovarsi davanti una concreta opportunità di fare un salto dimensionale, perché è un'impresa di successo, sta agendo molto bene sui mercati, può per esempio comprarsi un concorrente e quindi raddoppiare, triplicare la sua scala. Di fronte a una opportunità di questo tipo, l'impresa italiana ha un problema di finanza a quel punto. Cosa può fare? Può andare in borsa direttamente, ma questo è come dire, terrorizzante dal punto di vista della proprietà familiare concentrata, perché vuol dire in modo brutale esporre a rischio il controllo dell'azienda. Può rivolgersi alle banche, ma le banche da molte imprese sono percepite come distanti dalla operatività dell'impresa, non sempre in grado di comprendere la realtà tecnologica, la realtà di mercato. In una condizione di questo tipo, un intermediario di private equity è quello che secondo me ci vuole, perché è una via di mezzo fra quelle due opzioni, è un signore che entra nell'azienda in modo non brutale come farebbe uno scalatore in borsa, mettendoci soprattutto non soltanto dei capitali, ma mettendoci delle competenze gestionali che sono necessarie in quel momento per far fare il salto dimensionale all'impresa, che è anche un salto culturale, sta lì qualche anno per un periodo di media durata e poi, se l'operazione ha avuto successo, esce accompagnando l'impresa in borsa in quel momento. Quindi la funzione che io personalmente vedo come utile, interessante per il private equity in Italia, è un po' paradossalmente quella opposta a quello che normalmente il private equity fa nel mondo anglosassone, certo. Esatto, dove privatizza, qui si tratta di pubblicizzare. Ma cioè se lo fa in una proporzione che è meno di un quinto che in Gran Bretagna, in Italia, non dipende dal fatto che qui i fondi di private equity, che dovrebbero essere portatori di una logica totalmente diversa da quella di dare impieghi in termini di capitale di debito alle imprese, come fanno le banche, sono praticamente emanazioni delle stesse banche italiane. Sì, perché questo molti, è fatto. Molti fondi di private equity, è vero, sono emanazione di banche in Italia, e questa è una situazione che non si riscontra in altri paesi. Il nostro è un sistema bancocentrico, come lei diceva, ma non è l'unico al mondo. No, perché su questo, Rossi, quando io capisco che bisogna parlare bene del sistema bancario, non ha avuto gli altri guai che hanno avuto gli altri, però è anche vero che quando poi tutto il sistema risparmio gestito e amministrato dalle famiglie al 99% sta nelle mani di società che sono emanazioni bancarie, il private equity, che dovrebbe, come lei ha appena detto, svolgere una funzione molto distinta e diversa da quella delle banche, in realtà è anch'esso espressione delle banche. Questo forse non aiuta. Sì, non tutti sono emanazioni di banche, naturalmente. Una presenza maggiore che in altri paesi di fondi di emanazione bancaria, e questo secondo me non giova. Questo io l'ho scritto chiaramente nel libro, perché i due mestieri sono radicalmente diversi. Un banchiere deve, per sua intima costituzione genetica, essere avverso al rischio. Io intermediario di private equity c'ho deve la stessa, amare un po' il rischio. Certo, c'ho la stessa domanda finale per Paolazzi e per Rossi. Di queste riforme di cui Paolazzi giustamente diceva, le imprese si erano tirate sulle mani, che erano in un processo, però di riforme dopo quelle delle pensioni del 95 di Dini e tutto il resto continuiamo a parlarne, ma se ne parla, non se ne viene mai a capo. Perché, Paolazzi, secondo lei continuare, come è giusto secondo me, a chiedere riforme strutturali che rendano più credibile la sostenibilità dei conti pubblici italiani, che aggravino, che rendano meno grave lo squilibrio intergenerazionale dei conti previdenziali del welfare italiano, perché continuare a chiedere questo? Viene di solito, nella sua esperienza, considerato dagli attori politici eccetera eccetera con un certo fastidio crescente, come se si fosse dei provocatori, degli scassatori, invece che di gente che indica una soluzione più strutturale, più utile a risolvere insieme in questo contesto di maggior credibilità i problemi di produttività del paese. Secondo lei perché c'è questa reazione che è diventata crescente negli anni? Chiedere ai politici con una battuta, nel senso, ma i politici che negano che sia così, quindi è più interessante chiederlo. Non penso che negano sia così. Devo dire che nel corso degli anni comunque il paese le riforme strutturali le ha fatte. È vero, diciamo, che è un paese dove il collante del consenso non è mai stato facile da ottenere, dove i governi, anche quelli di ampia maggioranza in realtà sono governi di coalizione e quindi finiscono per avere tante anime al loro interno e ciascuna anima tende a cercare di conquistarsi i bacini elettorali, difendere quei bacini elettorali, non faccio nomi e cognomi ovviamente, però basta chi ha buone orecchie per intendere intenda, basta pensare ai voti operai al nord dove sono andati in questi ultimi tempi. Penso diciamo che il ritmo con cui queste riforme sono state fatte è stato sempre troppo graduale, troppo lento e qui gioca sicuramente quella cosa, quella stranezza che è ben indicata nel libro di Rossi, cioè il ruolo politico che i sindacati si sono ritagliati e in un certo qual modo il paese gli ha dato, per cui tutta una serie di riforme devono comunque passare al vaglio di qualcuno che non viene eletto, che rappresenta una porzione piccola anche degli stessi lavoratori, perché per quanto sia alto rispetto a altri paesi il tasso di sindacalizzazione nel nostro siamo pur sempre al 30%. Sì, poco più del 30%, di cui era mai più della metà, non più in esercizio, lavoratori non più in esercizio. No, il 30% è di lavoratori in esercizio. Sì, quindi, sì. Quindi comunque è una percentuale bassa. Allora, è chiaro che questo fa parte diciamo di una arretratezza culturale che io non credo diciamo che ci sia un vero fastidio da parte dei politici, c'è il fatto che i politici vadano semplicemente a mantenersi consenso in un contesto di continua concorrenza nell'arena politica, molto tempestoso, con continue elezioni, quindi non è mai il tempo giusto. Certo, per mettersi qualche interesse contro. Rossi, in definitiva, nell'indicare quei due punti da cui siamo partiti, con cui il suo libro si conclude, lei questa volta evita di fare la solita litania delle riforme da fare, lo dice all'inizio del libro, dice do per scontato che bisogna farle, ma nella sua esperienza come mai poi alla fine il processo è così lungo? Ci sono gli interessi ed è vischioso il processo decisionale italiano, dice Paolazzi. Non è che per caso c'è anche qualche cosa? Quando lei dice il sindacato in particolare, punta un dito in particolare però. Dico il sindacato, dico anche la famiglia culturale del diritto. Metto questi due temi sullo stesso piano, anche se sono temi diversissimi e soggetti anche diversissimi. Le cose che ha detto Paolazzi sono tutte giuste e condivisibili, sono, come dire, questioni che naturalmente coinvolgono il funzionamento di quasi tutte le democrazie avanzate. Tutti hanno problemi di costruzione del consenso, di bacini elettorali, molti paesi hanno governi di coalizione, quindi i nostri problemi non sono unici. Noi siamo particolarmente attardati, devo dire, nel venire a capo di questi problemi di funzionamento della democrazia. Allora, io nel mio libro metto il fuoco su queste due questioni, che torno a dire, sono delle questioni culturali, qui non sto invocando appunto provvedimenti di legge. Ma infatti, come ha visto, il dibattito che abbiamo fatto anche oggi è stato di temi generali, troppo generali, dicono anzi molti dei nostri ascoltatori che amano, insomma, non dico il sangue come nell'arena italiana, ma io talvolta mi sottraggo deliberatamente e quindi faccio ogni tanto anche degli approfondimenti come oggi, di cui ringrazio i nostri due ospiti, Salvatore Rossi, l'autore del libro Controtempo, editore La Terza, l'Italia nella crisi mondiale, compratelo, leggetelo se volete capire un po' meglio i problemi della retratezza italiana, e Luca Paolazzi, il direttore del Centro Sud di Confindustria. Oimè, ringrazio i tre ascoltatori che non ho mandato in onda per colpa mia e ringrazio Petri Bescapè in regia e Gloria Guerrera in redazione. L'appuntamento è a domani. Radio 24. La passione si sente.